prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Un silenzio da morire è il silenzio in atto intorno alla Repubblica Centrafricana. Fatti salvi alcuni notiziari che potete sentire anche dalle nostre frequenze, sono quelli realizzati dalla Radio Vaticana. Quasi nessuno in Italia e in Europa si occupa attualmente di questa situazione che è davvero terribile. Treviso in questi giorni sta ospitando una serie di testimonianze, nei prossimi giorni rientrerà proprio dall'Africa un missionario, padre Gilberto Ceccato, che ha visto delle cose e ha una testimonianza drammatica da riportare. In questi giorni ne torneremo a parlare, proponendovi la voce di un medico che è stato proprio in Centrafrica. Lui stesso ha potuto descrivere la situazione. Il Centrafrica è un paese molto giovane, l'età media di meno di 19 anni, confina con il Camerun, con il Chad, con il Sud Sudan, con il Congo e con la Repubblica Democratica del Congo. Poco più di 3 milioni e mezzo di abitanti e una situazione che negli ultimi tempi è diventata davvero terribile. Nemmeno nei peggiori incubi si possono vedere scene come quelle che hanno visto appunto i missionari e coloro che sono stati in quest'ultimo tempo in quel paese. Un muro di indifferenza che va squarciato, perché è un conflitto vergognoso e terribile che deve attirare l'attenzione dei cittadini, dei mass media, perché questo silenzio uccide come uccidono le armi bianche e non bianche di coloro che stanno combattendo. Lo scenario umanitario è ricco di denunce, indipendentemente dal credo religioso o politico. In Centrafrica c'è una maggioranza di circa il 60% di cristiani e un 30% circa di animisti, il resto sono islamici. I fatti più recenti: 24 marzo 2013, con un colpo di Stato, i ribelli della cosiddetta Seleka hanno occupato la capitale Bangui e cacciato il presidente Bozizé, accusato di corruzione e crimini contro l'umanità. Circa 3.000 ribelli di origine del Chad e del Sud Sudan hanno conquistato il potere controllando l'intera Repubblica, sotto gli occhi indifferenti dei contingenti militari della comunità africana che erano presenti per missione di pacificazione. Sono continuati i combattimenti, battaglie più o meno violente che fin dall'autunno scorso hanno sconvolto il paese e ridotto in miseria ulteriore tutto il paese. Il governo del presidente Bozizé era già di fatto un governo corrotto e incapace. Questo recente colpo di Stato, invece di portare la pace nel paese, lo ha gettato ulteriormente in preda a distruzioni, saccheggi, uccisioni da parte di bande armate incontrollate, violenze inaudite su donne, anziani, bambini, molti arruolati come bambini soldato e mandati in prima linea. Un copione identico a quello già visto anche nei due golpe precedenti, quello che aveva portato al potere proprio Bozizé. I mercenari, poi non pagati secondo gli accordi che erano stati presi, si sono gettati sulla popolazione. Ad alimentare questi scontri, interessi dei ciadiani, dei sudanesi, ma anche interessi occidentali, interessi asiatici, nonché del terrorismo internazionale, dei mercanti di armi, di uomini e di droga. Su questo sfondo le ricchezze della Repubblica Centrafricana, i diamanti, l'uranio, le foreste, le terre coltivabili a monocultura intensiva, e il tutto, come detto, nell'indifferenza totale dell'opinione pubblica mondiale e della stampa internazionale. Le poche notizie sono quelle che noi vi stiamo dando in questo momento, arrivano proprio dalle congregazioni religiose, dalle ONG e da alcuni canali della televisione francese, appunto della Radio Vaticana, che abbiamo citato e che tutti voi potete sentire ogni giorno su queste frequenze dal lunedì al sabato alle 8:15 e alle 19:30. Nei prossimi giorni, come detto, tornerà proprio dalla Centrafrica per parlarne direttamente padre Gilberto Ceccato. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Lo stesso padre Gilberto in questi giorni, prima di tornare appunto in patria a raccontare di persona, ha fatto pervenire alcune pagine di un suo racconto, appunto partendo dallo scorso autunno, dicevamo, dai primi movimenti di ribelli, arrivando poi alle settimane scorse, e parto proprio dal suo racconto, dalle sue parole. Venerdì 22 marzo, appena terminato il pranzo con i miei confratelli, tutto sembra normale. All'1:15 un giovane mi chiama al telefono avvisandomi se sono al corrente di quello che sta capitando verso la città di Damara. Alle 15 devo uscire per un incontro, non so cosa fare. Alle 14 insieme ai miei confratelli sono nella veranda discutendo e ascoltando le ultime notizie alla radio locale Radio France International. In città regna un grande silenzio, un silenzio surreale, segno che qualcosa sta succedendo. Partiamo, arrivati verso il centro mi accorgo che la città è semivuota, non ci sono i taxi, non c'è il solito via vai di gente a piedi che siamo abituati a vedere nelle città caotiche dell'Africa. Arrivato a destinazione mi informo sulla situazione, ma non mi sembra che tutti siano al corrente di quello che sta succedendo. Terminato l'incontro, verso le 17:30 rientro in fretta a casa. Lungo le strade, in tutti i posti chiave, ci sono militari ben armati. Capiamo che le cose si fanno serie. Alle 18:30 sono finalmente a casa. Intanto il padre provinciale mi chiama avvisandomi di fare attenzione e di prendere la cosa sul serio. Il giorno dopo, sabato 23 marzo, 9 del mattino, si sentono in lontananza i primi colpi di cannone e i lanciarazzi. Chiamo un amico militare, dice padre Gilberto, ma non risponde. Chiamo altre persone, mi dicono che a 28 chilometri dalla città c'è una battaglia tra i ribelli e i militari filogovernativi. In città regna ancora uno strano silenzio da morte. Si resta sbigottiti, abituati al rumore e alle grida della gente. La tensione sale e i ribelli avanzano in maniera preoccupante. Si dice siano più di 7.000 per l'assalto alla capitale. L'ultima resistenza verso il 15° chilometro prima di arrivare a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. Qui si trovano un contingente del Sudafrica venuto a dar manforte al presidente. Visto il numero dei ribelli, i militari si ritirano fino alle porte della città. I ribelli avevano fatto avanzare dei ragazzini soldato di 13, 14, 15 anni. Alcuni militari del Sudafrica, rientrati in paese dopo la sconfitta, diranno di essere stati traumatizzati per aver ucciso centinaia di bambini e ragazzi soldato. Alle 14 si fanno rientrare a casa i seminaristi. Dopo mezz'ora un giovane che aveva preso il bus verso le parti calde della città mi chiama per telefono dicendomi che i militari filogovernativi sono tutti lungo le strade e in segno di disprezzo ammazzano i ribelli, hanno tagliato le mani e gli organi genitali ad alcuni di loro, mostrandoli con crudeltà alla popolazione. I militari hanno ucciso i ribelli giocando a calcio nella strada principale con la testa di uno di loro come segno di spietatezza. Alle 18 i ribelli entrano in città nella parte nord del paese, centinaia e centinaia di morti. Domenica delle Palme, 24 marzo, alle 7 i ribelli iniziano la battaglia per la conquista del palazzo presidenziale, attaccano la Caritas, rubano le macchine, tutto quello che trovano. Poi attaccano il seminario maggiore. Siamo cinque padri riuniti sulla veranda. Alle 16 arrivano due giovani dicendoci che i ribelli cercano tutte le case religiose perché hanno bisogno di macchine e soldi. Prendo subito le macchine e le nascondo. La notte è passata in bianco. Si arriva poi alla domenica di Pasqua, 31 marzo, siamo sempre chiusi in casa, dice padre Gilberto, e vi rimarremo per 20 interminabili giorni. Avrei molto da raccontare, ma manca il tempo e tanti particolari che porto nel mio cuore li condividerò con voi al mio rientro in Italia la prossima fine di giugno. Vi chiedo di continuare a pregare per noi, ma soprattutto per coloro che hanno perso tutto, i malati e i feriti che spesso non trovano medicinali, i poveri e le tante persone terrorizzate. Ritornando in Italia, scrive ancora padre Gilberto, voglio far conoscere questa realtà dimenticata all'opinione pubblica italiana. Non possiamo tacere e restare in silenzio. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.